Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra! Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. Rumori sospetti su questa parte di universo. Ben ritrovati, ben ritrovati alla nuova puntata delle porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat, 13.59 onde medie, o mediocri come le chiamiamo noi, oppure su Radio Wombat, appunto, net. No, non ci si sente, perché non ti si sente? Prova ora. Ora sì. Eccola. Punto net, volevo dire, radiowombat.net. Benvenute e benvenuti, porte di Tannhäuser, 3 febbraio 2025. 3 febbraio 2025, già un'altra puntata è stata fatta nel 2025, la scorsa, potresti essere tu quella che fa rumori sospetti. Molto più probabilmente io, ma è anche il no, nome... No, secondo me no, io ci sto pascioccando, ma non così, in maniera silenziosa. Il nostro futuro gruppo si chiamerà Rumori Sospetti, sì, vero? Esatto. Probabilmente sì, probabilmente no, chissà, staremo a vedere. Abbiamo già fatto una puntata nel 2025, di cosa abbiamo parlato la volta scorsa? Sai che non mi ricordo assolutamente... No, aspetta, dai. Non è vero, abbiamo parlato di viaggi. Brava, abbiamo parlato di viaggi. Viaggi nello spazio, nel tempo... No, nel tempo relativamente. Abbiamo accennato, sfiorato. Accennato che c'è anche quel tipo di viaggio, ma... Ma abbiamo lasciato in sospeso. Sì, anche perché viaggi effettivamente era una cosa enorme. Abbiamo parlato in particolar modo di Jules Verne, che chiaramente è nei... Butta via. Sì, gli albori della fantascienza. Esatto, e vi abbiamo così anticipato anche che avremmo fatto, promesso una puntata su i mondi di Oz, il mondo di Oz con tutte le sue sfumature, ma non sarà oggi la nostra ospite... Che ci avrebbe introdotto in questo mondo. Oggi era malata, ahimè, e quindi spostiamo questa puntata a venire. Ma abbiamo recuperato con una puntatona che, visto, come dire, gli ultimi recenti avvenimenti, era abbastanza dovuta. Sono morte un sacco di persone all'inizio di questo 2025, sì, diciamocelo, sì. Tutte compiante. Visto come butta il mondo, dice, Madonna, sai che... Ma infatti forse è meglio così per loro, guarda. E, è morta pure Marianne Faithfull, ma non sarà questa la sede in cui ne parleremo. Non è questo il giorno, no. Oggi parleremo di David Lynch. Faremo un omaggio dovuto a David Lynch e a tutto il suo mondo sognante, un po' da incubo, se dobbiamo dirla tutta, che però, insomma, chiaramente ha grossi rimandi nella fantasia, nel surreale, nell'irreale e nell'immaginativo. Quindi, insomma, era un omaggio dovuto. Assolutamente, quindi monografia, insomma, parleremo un po' di David Lynch, un po' delle sue grandi opere, un po' ciò che si lega alla fantascienza e comunque, insomma, dai, che costeggia o sta lì vicino. Quindi rimanete qui con noi su Radio Wombat, queste sono le porte di Tannhäuser, pezzo iniziale proprio in tema, e poi partiamo subito con la puntata di oggi, Wombat! Bye. Questo era il suono delle cascate dei picchi gemelli. No, no, ci saresti. Ah, rosso, sbagliavo io. Ho sbagliato canale. No, denunciamolo il fatto che ci cambiano i cavi sul mixer. Sì, qui c'è una denuncia formale. Formale. No, perché poi sempre siamo scemi noi. Contro i cambiatori di cavi. Vabbè. Maledetti. Iniziamo nel sottofondo con la celeberrima. Direi che ci sta tutto. Assolutamente. Ne parleremo peraltro ampiamente, quindi non come dire, non affrettiamo i tempi. No, non affrettiamo i tempi. Ci sarà tempo. E, dicevamo, David Lynch, regista ovviamente, che potremo collocare nell'ambito dell'onirico. Effettivamente lo diremo spesso, tutto ha a che fare con i sogni, col mondo del sogno, col mondo dell'onirico quando si parla di Lynch, e sono in un certo modo, in un certo senso, dei sogni, degli incubi che ci servono per elaborare il mondo in cui viviamo. Quindi sogni da un punto di vista proprio psicanalitico, un mondo un po' come dire, simbolico, strano, di cui non si riesce a afferrare il significato, imprendibile, ineffabile, e che però ci riconduce all'altra faccia della medaglia del mondo più reale che viviamo tutti i giorni. David Lynch nasce come pittore perché effettivamente la sua prima vocazione è quella dell'arte pittorica, proprio per un bel po', almeno per una buona parte della sua giovinezza sembrava che fosse quello un po' il suo destino. Poi diventa regista, nel frattempo esplora anche musica, come peraltro abbiamo sentito nel brano che di apertura. Esatto. Con la sua vocetta stridula, meravigliosa, che io ammetto sarà la cosa forse che mi mancherà di più di Lynch. Con la sua vocina inquietante. Quello che abbiamo sentito era Crazy Clown, l'album è Crazy Clown Time e è il secondo album. Sì, Lynch ha fatto questo excursus nella musica, diciamo, sì, due album se non sbaglio, ma ha fatto anche molte altre collaborazioni, insomma. Sì, certo. Poi la musica è fondamentale, lo diremo, lo ripeteremo in tutti i suoi film. Sentite in sottofondo Badalamenti era un collaboratore cruciale per il lavoro di Lynch, e secondo me è un'altra delle cose a cui, insomma, che ci mancheranno di Lynch, che molto bella era il sapersi scegliere collaboratori, persone con cui lavorare insieme, che sapevano il fatto loro, e musicisti ne ha trovati sempre di meravigliosi. Quindi esplorava, dicevamo, la musica, ma anche la fotografia, anche la scrittura, devo dire, anche se non ho mai letto niente di suo, ma insomma, no, pare che abbia fatto anche un po' quello. Nella pittura e nella musica anche lì troviamo i caratteri un po' che contraddistinguono tutto quello che fa Lynch, quindi misterioso, l'angoscioso, la vita un po' storta, sgraziata, tutto quello che è impuro, potremmo dire, non pulito, non lindo. Non a caso pare che, insomma, anche un po' dai racconti che fa lui, i pittori che amava di più erano Kokoschka, per dirne uno, che era un espressionista inquietantissimo, assolutamente deforme, meraviglioso, e Francis Bacon, un altro pittore che amava moltissimo e che ha evidentemente influenzato tutto quello che faceva. E, come dire, Lynch è ovviamente, si sa, affascinato dall'inquietante, e in tutto quello che fa, quindi, come dicevamo, sia nella musica, nei film, ma anche nella pittura, quando ci si cimentava, fa emergere un po' i desideri e le paure dell'inconscio. Cioè è come se tutto quello che rimane normalmente sopito, anche di brutto, di inquietante, di inconfessabile, lui lo volesse portare a galla per anche in qualche maniera esorcizzarlo, per non rimuoverlo. E quindi, proprio come funziona nell'inconscio, come ci insegna la psicanalisi, potremmo dire, l'inconscio ha un suo linguaggio, che è un linguaggio che non può essere quello del mondo ad occhi aperti. Quindi a molte persone Lynch non piace, e non è che possiamo stare a questionare. La cosa che mi viene da dire è che non si può giudicare le opere di Lynch con gli occhi aperti, cioè come giudicheremmo la realtà che vediamo normalmente, perché è un altro linguaggio, è lo stesso linguaggio con cui parliamo a noi stessi durante i sogni. Quindi ci sono delle regole diverse, dei linguaggi diversi, dei simboli, e anche questo un po' Lynch cerca in maniera programmatica di riprodurla. Quindi c'è un linguaggio confondente che ti lascia, che non capisci, in cui è difficile entrare. che però ti lascia con un sacco di domande, che ti fa lavorare in qualche maniera. È un linguaggio enigmatico, simbolico, e quindi non è tanto importante cosa accade nel film, ma cosa ci rimane, cosa questo film ci suscita. Allora sì, assolutamente. Tra l'altro c'è un rapporto con, appunto, come dici tu, con il contorno, che è il mondo reale che sta intorno a noi, che spesso e volentieri è un rapporto con la natura, dove la natura non è che voglia tanto bene all'uomo, è distaccata, è sì. Anche quella. E infatti lui nasce nel Montana, che è uno degli stati più boschivi, con più è vero. Montagne, boschi e roba inesplorata, per cui la natura lì non è che è proprio amica dell'uomo, ecco, ci devi saper convivere, e questo si rivede, no? Un po' nelle sue opere tutte, in qualche modo. È vero, e così come anche, beh, non è come Cronenberg, non è come quella roba di cui parlavamo anche qualche puntata fa, non c'ha l'ossessione per la tecnologia, per esempio, non ha questa tecnica invadente che invade il corpo, però c'è sempre un mondo ostile in cui l'essere umano si trova a dover vivere, ma molto spesso l'ostilità è in realtà interna. Quindi anche è strano, è come se la natura ostile che troviamo sempre dentro Lynch fosse un po' il riflesso della natura di noi stessi. Quindi sì, siamo ostili, siamo in qualche maniera anche problematici, perché siamo esseri animali, cioè certo. Facciamo parte della natura, certo. Non è che siamo creature esterne, e quindi con tutte le sue ombre, le sue luci e tutto quanto. E parte proprio dalla pittura, appunto, come dicevi, per poi passare a un altro tipo di quadro e di inquadratura, appunto, perché poi sarà poi tutta la sua carriera da regista, che inizia nella seconda metà degli anni 60. Nel 66 fa il primo cortometraggio, Six Men Getting Six, nel 1966. E da lì appunto inizia ad esplorare anche quella parte lì, però non rimane sopita, no? L'artista anche pittorico in qualche modo, no. Tutt'oggi si possono trovare tutte le sue opere, no? A New York e alla Pennsylvania Academy of Fine Arts, quindi insomma, di che roba ne ha prodotta. Ma infatti, ma tra l'altro sì, cioè obiettivamente c'è anche una fotografia in testa. Lui esatto. Anche lì è molto, a me piace il fatto che obiettivamente non come dire, non è che doveva fare tutto lui. Però però se poteva. Sì, se poteva si dava il suo, cioè, probabilmente doveva essere una persona che comunque avesse l'intorno aiuto. Nel senso, poi non lo so, non ho la più pallida idea, però mi sa che voleva avere appunto, è famoso questo episodio in cui lui racconta di come creava la musica accanto a Badalamenti, ma proprio accanto fisicamente, cioè si metteva proprio accanto a lui, un po' tipo con ansia, cioè io me lo immagino un po', oddio. Che ansia. E così immagino del resto. Però si sapeva anche circondare di persone molto valenti. Nel senso, il montaggio non è che se lo faceva da solo, no, molto certo. Famosa la montatrice dei suoi film, che insomma fare un montaggio bello nel suo caso non è proprio banale. E lo stesso era per i vari direttori della fotografia, anche che evidentemente sapevano cogliere anche quell'occhio di Lynch. Quindi sì, si vede, ci sono questi quadri che emergono anche dai suoi film, quindi evidentemente ha un occhio pittorico che poi gli rimane in qualche maniera. Quindi sì, assolutamente. D'accordissimo, andiamo avanti un po' con le sue prime opere, diciamo. Ora appena riparte il sottofondo, perché c'è il momento di silenzio. Vabbè, ma quello è per lasciare un po', come dire, la suspense. E di nuovo si riaprono il ruscello, che poi diventa fiume, che poi diventa cascata. Esatto. E niente, il nostro Beniamat Lynch, appunto, grazie a questo primo cortometraggio, vi dicevo, Six Men Getting Six, Gli viene commissionata un'altra opera in forma di video, ma finisce malissimo. Il primo tentativo è un disastro, la macchina appresa non funzionava, la pellicola del giratore gli si rovina tutta, un casino. Però poi dopo ci riprova nel 68, poco dopo, e riesce a realizzare The Alphabet. È uno dei suoi primi lavori dove ancora non c'è tutta la sua poetica, ma è un ibrido, diciamo, tra il cinema sperimentale, un'installazione, insomma, è una roba particolare comunque. Sì, tra l'altro veramente lui ha iniziato in quegli anni, e poi lo vedremo, insomma, negli anni 70 è proprio il suo exploit, è quando inizia a fare le cose un po' più compiute, diciamo, e erano anni in cui si sperimentava, si amava sperimentare anche in questo ambito, ma certo, il suo modo di sperimentare era veramente strano, cioè, e fra l'altro lo vedremo, ha stupito molto che venisse apprezzato, che venisse come dire, in qualche maniera riconosciuto, perché i primi film che ha fatto, ora chiaramente quando si parla ancora dei primi cortometraggi, sono i veri film, certo, vabbè, però anche i primi Eraserhead, cioè comunque poi ci entreremo meglio, ma insomma anche quei libri lì quei film lì erano veramente conturbanti, e stupisce che negli anni 70 vero. Piacessero o comunque che avessero un certo successo di pubblico. Quindi evidentemente sapeva cogliere le paure e c'è una certa inquietudine anche. Infatti nel suo primo lungometraggio di 34 minuti nel 1970, The Grandmother, per esempio lo gira tutto in casa sua e dipinge tutte le pareti di nero. Capito? Di casa sua. Tanto gli frega. E qui già si inizia, esatto, l'inquietudine comincia a uscire. Poi nel 70 invece, con il fatto che poi lui si trasferisce a Los Angeles, quindi cambia drasticamente. Ora, nel mentre aveva già viaggiato tanto, era già stato in Europa, quando gli piaceva la pittura era stato... dov'è che era stato? In Russia anche, forse? Non ricordo. Era stato in Austria, scusami, era andato in Austria, ecco. Salisburgo, per esempio. Quindi lui aveva già viaggiato e girato, però poi tornava sempre a casa nel suo Montana. Ma nel 70 poi si trasferisce a Los Angeles e lì, insomma, comincia a frequentare il conservatorio dell'American Film Institute, e quindi si inizia, ora tra poco, il 77 è il primo film, diciamo... Sì, Eraserhead del 77. Siamo sì. A 7 anni dal primo Lynch conosciuto. Sì, tra l'altro leggevo che nel suo periodo austriaco a Salisburgo si era scappato sostanzialmente a gambe levate. Sì, sì, sì. Dicendo no, vabbè, ma questa città... Cioè, proprio io penso anche da un... Bello, ma non ci vivrei. No, ecco, cioè da un punto di vista anche estetico, tutto quell'ordine, ma un ordine non a cui lui era abituato, perché io mi immagino anche l'ordine delle villette a schiera americano, tipicamente, no? Degli anni 60, così, lui ce l'aveva bene in mente, si vede nei suoi film, insomma, quindi evidentemente quello era un ordine ossessivo, particolare, malato, a cui però lui era abituato. Probabilmente un altro tipo di ordine, che era quello invece di Salisburgo, ecco, quello forse non troppo. Se l'ha collato, sì. Infatti non ce lo vedevo, dai, onestamente. E quindi sì, finisce a Los Angeles. Vedremo poi che Los Angeles gli rimane abbastanza appiccicata addosso e la rivomita fuori in film in cui poi di base ci butta dentro il mondo perduto di Hollywood, ad esempio, e tutto quel mondo di plastica, di sogni infranti che è stato raccontato tante volte, tra l'altro, ma che Lynch anche ha saputo raccontare molto bene. Tra mille peripezie, problemi di budget, nel mentre si blocca, che allora crea altri piccoli cortometraggi tipo Amputee, roba varia, però arriviamo finalmente nel 77, riesce a portare a termine il suo primo vero lungometraggio, e che è salito poi alla ribalta perché è considerato un gran bel film. Sì, allora premettiamo che è veramente difficile raccontare le trame di Lynch del film, e forse non ha proprio senso farlo, quindi forse mettiamo le mani avanti che non lo faremo, o comunque ci proveremo poco, perché vi segnalo che ho ritrovato, io per prima non mi ricordavo assolutamente, ma ci sono due puntate, una di Slick Chick di diversi anni fa con degli ospiti illustri dove abbiamo parlato di David Lynch, quindi se volete sul sito Radio Wombat potete rintracciare queste due puntate, e lì, proprio lì, con il primo ospite della prima puntata ci confrontavamo proprio su questo, su come sembra quasi quando ti raccontano un sogno, no? C'è una tua amica o un tuo amico che ti racconta un sogno, magari per lei importantissimo, interessantissimo, e te ti fai due palle così, perché ti inizia a dire sì, perché poi c'era quello, c'era quell'altro, e nella testa di chi te lo racconta è super vivido, vuol dire mille cose, ma te non ti arriva, cioè comunque fatichi a entrare in quel mondo. Ma quante volte ti è successo e dici questo film io lo adoro, lo faccio vedere a un amico o un'amica e gli fa schifo, sì, sì. E sei costernato, sì. Perché sì. Ma così anche con i libri, anche con i libri un sacco io. Pensai, i libri però non lo rileggi insieme a lui, no, o a lei, no? Il film invece sei accanto, per cui lo vedi la sua espressione, per esempio, insomma, Lynch a volte può essere difficoltoso, no? Sì, ma più che altro perché davvero c'è difficile raccontarlo, quindi in fondo è proprio come se si volesse raccontare un sogno, riesce a farlo, dai, non ti può riuscire. E quindi anche per quanto riguarda Eraserhead, che è il primo film in cui ci addentreremo stasera, la mente che cancella, esatto, cioè cancelliamo, cioè, anche qui è un po' difficile. Di base è un po' un fumetto di Crumb, io me lo sto un po' per darvi un input, certo. Secondo me è quello. Innanzitutto è fantascienza. Per una volta, quindi, sì, ci siamo. Un po' canonica, mentre gli altri è veramente un po' più difficile anche dagli un genere. Questo sì, dai, si può mettere nella casella della fantascienza. Diciamo che lo scenario è un po' fantascientifico, ma almeno futuristico, anche se ci sono un po' dei dubbi, insomma non è che si capisce bene, però ci sono degli elementi che ti fanno intuire, si parla di di un pianeta che non si sa bene qual è, ma insomma c'è il cibo, si mangia del cibo artificiale, del cibo sintetico, quindi ci sono degli elementi che ti fanno capire che si tratta di un futuro. E c'è questo uomo che diventa padre di un bambino deformato, ibrido, strano, che fra l'altro non la smette mai di piangere, è disperato, non si dà pace. E c'è questo padre che si ritrova padre in una maniera anche un po' strana, un po' rocambolesca. E poi ci sono tutte il dipanarsi di queste avventure, chiamiamolo così, di questo padre che cerca di fare a patti con la paternità, ma quando si ritrova ad avere un figlio mostruoso in qualche maniera. Quindi anche qui ovviamente rimaniamo non c'è niente di letterale nei film di Lynch, è impossibile, no. Che anche lì le letture che leggevo, che ne vengono date sulla la difficoltà dell'essere padre, va bene, però secondo me Lynch lì c'aveva qualcosa di un po' più profondo, per carità, anche quello, però anche soprattutto il terrore di veder crescere in sé, dentro di sé magari, o riconoscere dentro di sé o qualcosa che ti è molto legato, che senti tuo, qualcosa di mostruoso, di pauroso, che ti fa paura, che ti fa ti spaventa, sì. Ed è pure tuo. Però, esatto, il confine fra sogno e realtà è sempre, cioè, poi magari è anche chiaro, però ti viene il dubbio, ecco. Perché nel sogno, sia nel sogno che nella realtà, soprattutto in questo film, vede della roba fuori di testa. Comunque. Sì, completamente. Ma infatti c'è sempre un po' questa cosa. Diciamo che gli elementi un po' ricorrenti sono vari e li possiamo rintracciare un po' in tutti i film. Uno tra gli elementi ricorrenti c'è proprio questa difficoltà nel distinguere il falso dal vero. Proprio come in un sogno, scusate, perché effettivamente nel sogno molto spesso tu ti confondi, non capisci bene. Quante volte ci è capitato di pensare di non stare sognando, in realtà poi a un certo punto ti accorgevi che era un sogno, poi la difficoltà del certe cose che ti sembra che abbiano appigli con la realtà e che quindi tu stai sognando in fondo una cosa abbastanza reale, abbastanza precisa, poi in realtà ti si incasina tutto, si intromette un elemento completamente strano che ti smarmella tutto, ti porta altrove. Questo è proprio il linguaggio dei, dei sogni in qualche maniera, e Lynch anche qui lo prova a usare. Infatti c'è una certa circolarità delle cose, cioè appunto si parla appunto, surreale, simbolismo appunto. Questi simboli o queste visioni di certe cose, cioè, delle forme magari che ti trovi per esempio in questo film all'inizio del film, poi lo ritrovi alla fine del film, cioè ora non posso dire precisamente a cosa mi riferisco, perché poi rovini la sorpresa. Però c'è sempre, sì. Esatto, c'è un ritorno sempre, poi magari con leggermente diverso, però si capisce che c'è una circolarità in questa, forse in questa spirale onirica infinita. Sì, tra l'altro io notavo, non so se è una fissa mia, magari, però anche per esempio l'utilizzo di che fa Lynch degli attori feticcio, no? Ci sono questi attori che ricorrono. Ah, beh, certo. Non tutti, però ce ne sono alcuni che ci sono sempre nei film di Lynch, comunque li ritrovi in molti. A volte sono anche i protagonisti stessi. È strano perché anche quello diventa un elemento ricorrente, addirittura tra un film a un altro, fa quasi da ponte tra un film all'altro, no? Come quasi se tu avessi smesso di fare un sogno perché ti sei svegliato, poi ricominci a sognare e ti ritrovi quella stessa persona in altre situazioni, perché sei tu magari, no? Che un giorno sogni una roba, il giorno dopo sogni sempre te stesso, però in un'altra situazione. Anche lì è un elemento ricorrente. E questi elementi ricorrenti ci sono un po' in tutta il linguaggio di Lynch, e a volte sono dei simboli, a volte lo vedremo, sono degli orecchi, per esempio, o dei dettagli, dei colori, certe musiche, la stessa musica di Badalamenti è qualcosa che gioca molto sul ricorrere, no? Sulla loop, sul... Sentite questa in sottofondo di Twin Peaks, è un loop di fondo, poi... Sì, sì. Che ti aiuta anche a entrare dentro questo mondo. Sì, assolutamente. Anche perché la frenesia tendenzialmente arriva dopo. Di solito tu ti addormenti, no? Quindi dolcemente o insomma, è vero. O comunque non con l'ansia, non con la trepidazione. Poi a un certo punto arriva. Sì, poi ti svegli di soprassalto. All'improvviso. Dice che un po' questo Eraser... È un po' la proiezione di Lynch su tutte le difficoltà che lui a Filadelfia ha vissuto. Ah, vedi. E che quindi ha riportato all'interno del film. Poi c'è questa... ci vorrebbe qualcuno di più esperto. però dice che c'è questa leggenda, no? Che lui aveva... durante le riprese aveva fatto in modo... aveva fatto questo feticcio, appunto, come dicevi te. No, tu parlavi degli attori feticcio. Vabbè, no, ce n'era, di vari. Esatto, un feto di vitello. Di vitello, brava, ecco. Sì, perché non è mai stato chiarito, lui a un certo punto c'è, non vi sveliamo troppo, però insomma, devono far vedere il momento, figurati se Lynch perde l'occasione di far vedere il feto, no? di cui stiamo parlando, quindi questo bambino che, come abbiamo detto, è deforme, per certi versi mostruoso, e quindi c'è questo feto che pare... Cioè non si sa come l'abbia fatto. No, perché poi alla fine la gente gli ha detto, sì, ma ok, ma che cos'era sta roba? E lui ha glissato, dice che addirittura si sia fatto bendare... in modo da poter dire senza problemi che lui non sapeva cosa aveva ripreso. Ora, io la sapevo che era quelli gli addetti alle macchine venivano bendati per non anche sapere loro. Come erano fatto. Vabbè, boh, sì, non lo so. Non lo so. Però sì, di fatto lui non ha mai risposto a sta domanda. Poi ma lì sono state varie leggende. Poi questo feto di vitello è stato sepolto. Esatto, alla fine della ripresa l'ha seppellito e ha fatto una veglia. Sì. Ma chissà se è vero, magari era di plastilina, vai a sapere. Cioè, queste fanno parte, secondo me, anche delle cose che Lynch buttava lì, perché comunque ci stava. E anche lì ti lascia con la domanda di cosa è vero e cosa è falso, in fondo. Tra l'altro leggevo invece che tra gli stimatori di Eraserhead c'è Kubrick, che pare, che personcina amabile doveva essere Kubrick, pare che lo proiettasse continuamente durante la lavorazione di Shining per trasmettere inquietudine agli attori. C'è un leggermente velo di sadismo proprio appena accennato. E quindi sì. E, non lo so, forse vogliamo mettere della musica. Io a tua insaputa ti ho messo della musica sul desktop. L'ho vista, la stavo guardando lì proprio ora e così. Non lo vedo più però. Perché ora c'è, ora non c'è. Prima c'era, poi non c'è più. Ah no, perché non è questo, scusami. Chissà. Comunque sì, possiamo forse... più che altro perché poi dobbiamo parlare di molti altri film e quindi, non so, c'è una pausa, forse ce la meritiamo. Assolutamente, va bene, metto la prima cosa che mi capita perché non sto trovando, metterò... questo l'ho già messo, questo... E là. Chissà. A fra poco. Rieccoci qua sulle porte di Tannhäuser, Radio Wombat 1359 Onde Medie. Stiamo parlando di David Lynch. Abbiamo parlato del suo primo film del 77, Erased. 77, sì, ho detto bene? Sì, hai detto bene. E però appunto volevamo, ci stiamo andando un po' avanti oltre a Erased, siamo rimasti un po' a tutte le sue follie, compresa quella di questo feticcio strano, di questo feto, chissà, che non sappiamo, chissà che rimarrà nell'oblio. Oppure potete scriverci a posta wombat@insiberia.net se avete delle info in più. Chi l'ha visto? Esatto, andiamo avanti però. Andiamo avanti e arriviamo all'80, quindi pochi anni dopo, tre anni dopo, nel 1980, anche un po' sull'onda del successo di Eraserhead, perché nonostante la trama che vi abbiamo raccontato, comunque quello che vi abbiamo detto, che non è proprio il film edificante da Hollywood, ecco, come dire, no. Eraserhead ha avuto un ottimo successo. Tra l'altro, sì. Abbastanza incredibile, io devo dire, sono abbastanza caduta dal pero. Fatto sta che sì, ha avuto un bel successo anche credo di incassi, quindi di fatto Lynch è stato lanciato anche nel limpido mondo del mercato dei film e ha potuto fare il suo secondo film, secondo in realtà non era il secondo, ma insomma il suo secondo film più famoso, che è The Elephant Man, nel 1980. Elephant Man, bellissimo, se non l'avete visto, non è uno dei film, come dire, per cui viene recentemente ricordato. Però è un titolo che tutti conosciamo. Sì, dai, è spettacolare. Non ha ancora, come vedremo, le caratteristiche tipiche che poi ritroveremo dopo in Lynch, in tutte quelle cose molto più liquide, molto più incasinate. Qui è molto più lineare, la trama è quasi raccontabile. Si parla ancora di mostruosità, chiamiamola così, di deformità, tratto da, cioè prende spunto da una persona veramente esistita, ovvero Joseph Carey Merrick, che era una persona vissuta alla fine dell'Ottocento, in epoca vittoriana in Inghilterra, affetto da sindrome di Proteo, che di fatto è una sindrome rarissima, che praticamente fa crescere parti del corpo in maniera abbastanza sregolata, in maniera, come dire, non regolare, non conforme a quello che sono gli altri esseri umani, e quindi si ritrovano con degli organi molto sviluppati, teste enormi, braccia enormi, e questo comporta grosse problematiche al di là dell'estetica che sti cazzi, ma anche alla fisiologia e al modo con cui poi riesce a vivere effettivamente. Per cui tra l'altro leggevo che Joseph Carey Merrick, quindi il vero Elephant Man, che veniva effettivamente chiamato così, muore soffocato, pare, anche qui chissà se è la leggenda, perché lui non poteva dormire come le altre persone coricato, cioè supino, ma aveva bisogno, per come era fatto il suo corpo, di stare seduto di base, eretto, e a un certo punto cerca di addormentarsi in maniera come le altre persone, accanto a un'altra persona, e muore soffocato in questo modo. E così anche questo episodio, c'è, cioè anche nel film di Lynch, viene raccolto, perché effettivamente è estremamente poetico, se vogliamo. E qui nel film di Lynch, che racconta appunto Joseph Carey Merrick, c'è chi in qualche maniera vuole aiutare Elephant Man, c'è chi lo vuole sfruttare, chi ne viene ferito, perché comunque è una persona capace anche di fare male, di in qualche maniera, più o meno volontariamente, ferire le altre persone, chi ne fugge, chi ne ha tratto. E anche qui, insomma, Lynch di base, di nuovo, forse ci dice cosa fare del nostro io mostruoso, cioè si domanda come si fa a gestire questa cosa, come l'affrontiamo, prova a buttare lì vari modi in cui viene affrontata. Sì, e poi racconta chiaramente anche la cattiveria del mondo, per cui questo povero Elephant Man viene comunque alla fine amato da quasi nessuno, sfruttato, raggirato, insomma è una storia triste, è una storia triste. Tra l'altro il produttore, uno dei produttori è Mel Brooks. È vero, sì, sì, che l'ha voluto tantissimo, tra l'altro. Che sì, sì, che assolutamente era innamorato della trama, della sceneggiatura. Ma quando gli fu detto, guarda, ci sarebbe David Lynch, Lynch, ma chi è? No, non lo sceva. Non lo sapeva. Dice, ma boh, mi sembra una roba appesa da fare, siete sicuri? E poi dice che quando vide Eraserhead, o come si dice, Eraserhead. Quello lì? E gli piacque talmente tanto, disse no, va bene, buono, lui. E sì. Però non si è fatto mettere nei titoli di coda Mel Brooks, che perché si sa mai. No, perché dice non voleva che si collegasse un film così pesante comunque a lui che scrive tendenzialmente idiozie, lo amiamo per questo, per carità, però non voleva collegare. Che buffo, vedi? Pavido, il pavido Mel Brooks. Un po' pavido. E invece sì, lui, Lynch, ovviamente ci si è buttato a capofitto, capirai, era proprio il suo. E quello che ne è venuto fuori è questa pellicola in bianco e nero bellissima, assolutamente, anche se vogliamo, appunto, come si diceva prima, diversa dal resto. Cioè non vi immaginate il Lynch, se non l'avete visto, chiaramente, è il Lynch quello di Mulholland Drive, cioè quello più o anche proprio di Twin Peaks. Qui si tratta di un Lynch vagamente, apparentemente più lineare. Sì, certo. Con una, tutto sommato, una trama seguibile, sì. Ma con molti riferimenti, anche qui di nuovo, simbolici, molti elementi ricorrenti e molte cose che chiaramente strizzano l'occhio alla paura. Anche qui, che è una paura a trazione, continuamente... cioè, si gioca su questa ambiguità verso la deformità e l'imperfezione, quindi c'è un continuo riferimento all'imperfezione come qualcosa che da un lato ti spaventa ma dall'altro lato senti che fa parte di te e ne vorresti ancora in qualche maniera. È strano, molto strano. Quindi questo è Elephant Man. E poi dopo poco, qualche altro anno, nel 86, invece David Lynch fa uscire Velluto Blu, Blue Velvet. Io lo conoscevo infatti come Blue Velvet. Che bellezza, con quella colonna sonora meravigliosa. Sì. E qui iniziano a esserci un po' gli elementi, secondo me, più ricorrenti di Lynch. Cioè ci ritroviamo, forse inizia a esserci il suo stile, quello che poi diventa il suo stile più riconoscibile. C'è uno studente che trova un orecchio mozzato. Già all'inizio che voglio dire, no? Però non è in sé trovare l'orecchio. Perché cosa porta al ritrovamento di questo orecchio? Perché infatti il punto è che questo orecchio è al centro del mondo. Però in realtà è quasi una scusa, perché da lì si accede in una certa maniera. Questo studente accede a una città inconfessabile, una città nascosta di sotterra, sì, sotterranea comunque, effettivamente, dove succedono cose di tutti i tipi, in qualche maniera inconfessabili, e tutto ciò avviene per qualche strano motivo, per qualche strano filo irrintracciabile, dopo il ritrovamento di, grazie al ritrovamento di questo orecchio mozzato. Quindi la curiosità, l'attrazione in qualche maniera, e questo studente che non riesce a smettere di porsi il quesito del ma che è sto orecchio, da dove arriva, ma perché, e da lì gliene succedono di tutte fondamentalmente. E qui iniziamo a vedere i simboli ricorrenti, no? Non solo questo orecchio che ricorre, ma anche l'uomo in giallo. Cioè questo personaggio mai definito veramente, cioè non è che alla fine tu capisci questo chi è davvero e perché sta lì, eppure ricorre. È una sorta di chiodo fisso, no? Cioè Lynch ti pianta in testa questo chiodo, questa immagine, anche lì, come dicevi all'inizio giustamente te, molto pittorico in questo, no? Ti butta lì un personaggio con un colore, con una estetica riconoscibile, e questa cosa non ti molla più dall'inizio alla fine, e non sai dire bene perché ti rimane in testa. E questo poi se lo porterà dietro un po' in tutte le cose che fa dopo, tutti i lavori che fa dopo. Anche qui è un'ambientazione di un'America, non so se si parla di America o meno, comunque ambientazione di queste cittadine vicine ai boschi, vicine ai laghi. Infatti il posto, se non sbaglio, si chiama Oak Lake. Insomma, c'è sempre un po' questo Montana o similare. Sì, è vero. E evidentemente lo ispirava, come dire. Capisco anche, sinceramente. Ci sono mai stata, ma dalle immagini lo capisco. Sì, questa cosa qua di velluto, di blue velvet, velluto blu. Sì, si inizia a entrare in questi meandri che poi sono gli stessi che ritroveremo in Inland Empire, ma anche davvero banalmente in Twin Peaks. E, quindi, dopo poco, siamo alla fine degli anni Ottanta, abbiamo detto, e arriviamo a Dune. Oh! Dune. Vogliamo parlare di quante peripezie ha avuto Dune? Forse meriterebbe una puntata intera, perché veramente... Sì. Tragedia. Sì. Quanti hanno provato a raccontare Dune? Ci aveva provato prima di lui, prima di Lynch, ci aveva provato Jodorowsky con, tra l'altro, Giger. Sono reduce dall'essere stata a vedere la mostra di Giger a Torino, che tra l'altro vi consiglio, molto molto molto bella, dove ci sono i bozzetti degli Harkonnen. Cioè, giustamente Jodorowsky, quando vede... la cosa è questa, il trip è questo, che da lì, così, niente meno, dice a Jodorowsky, erano amici, e gli dice: oh, ma lo sai, ho visto questo pittore stranissimo, questo artista stranissimo svizzero, un giovane pazzo che fa queste robe assurde, era Giger. E ovviamente Jodorowsky dice: ok, perfetto, c'ha sti immaginario malato, perfetto per fare gli Harkonnen. Quindi gli fa fare tutti i bozzetti, gli fa fare tutto, e poi, come sappiamo, Jodorowsky non riesce a fare Dune, quindi Giger se la prende anche un po' male, dobbiamo dirlo. E dopo di lui, di base, nell'84, quindi in realtà anche prima di Blue Velvet, quindi siamo un po' in contemporanea, perché poi ci mette tanto a girarlo, Lynch accetta di girare questo adattamento cinematografico di Dune, un romanzo di Frank Herbert, e per conto del produttore italiano Dino De Laurentiis. Esatto. Pensa a te. Esatto, per conto di Laurentiis, che gli, diciamo, commissionò questo film. Ora chiaramente la storia è ben più complicata, però il punto è che sperava la Laurentiis di farci i soldoni. Vabbè, cioè, dai, perfetto. Colossal, comunque, quella era l'epoca dei grandi Colossal, di anche storici o meno, però insomma, il cinema cominciava a avere quelle grandi produzioni che incassavano milioni e milioni. E invece, costato 45 milioni, ne recupera solo 27,4, quindi... Malissimo. Va molto male per il Laurentiis. Tu pensai fa Star Trek, tipo Star Wars? Sì, tipo Ben-Hur, forse, capito? Cioè, quei Colossal che comunque poi entrano... E in un certo senso l'hanno fatto, eh? Fare l'hanno fatto, ma... Ma lì per lì, Laurentiis non si è gustato il... No. I proventi. E poi soprattutto da lì inizia la grande peripezia del film, no? Che viene tagliato. Lynch aveva fatto un film da più di 3 ore. D'altra parte. Non era un tempo. Insomma, non. Alla fine al cinema ne esce una versione da 137 minuti, quindi da poco più di 2 ore. Quindi un'ora completamente tagliata. Si cercherà poi di recuperare, no? Nella versione da televisione? Sì, praticamente dice che anni dopo... chiaramente Lynch c'era rimasto male. Cioè ha detto, boh, ma che cazzo. Anche perché di fatto già lui è, abbiamo detto, confondente, onirico, tutto quanto. Se gli levi un terzo del film, ovviamente, cioè, poi non si capisce più niente. E quindi dice che sì, sti tagli che avevano fatto chiaramente rendevano la trama praticamente incomprensibile e il film è rovinato completamente. Quindi Lynch ci rimane male. Anni dopo dice che lo studio di produzione decide di distribuire una versione allungata per la televisione, sì, dove reinseriva alcune scene, i director's cut, quelli che vengono chiamati così. Quindi manco, capito, le cose che avevano tagliato loro, cioè, e altro. Quindi fa un casino, sostanzialmente. E ne fa una versione che non è né quella che aveva ideato Lynch né quella tagliata. Fa una via di mezzo loro all'italiana, no? Come sì. abbiamo visto per sì. gli anime all'italiana, si italianata. Taglia e si vede un po'. E infatti Lynch Lynch ovviamente che dice rimane malissimo, si oppone all'operazione e fra l'altro non la riconosce e si rifiuta di mettere i credits, cioè di mettere il nome, e quindi gli intima di che il film venga accreditato con un altro regista. Infatti viene accreditato come Alan Smithy, che pare essere il nome così fittizio che viene dato quando c'è un... Ah, non lo sapevo. Sì, quando c'è un regista che non si vuole accollare il film. Ah, pensavo perché... fosse davvero un regista in carne e no, ossa. No, ah, no, no, è un a caso, è come dire John Doe, cioè un Paolo Rossi, non so, Mario Rossi. Mario Rossi, sì. appunto, quello cambia avi, sì, sì, sì. esatto. Alan Smithy pare essere usato da Hollywood per così, per mettere... Comunque, si trova ora, la versione in DVD che si... DVD o che scarichi e trovi, che versione è? Sai che non lo so. Io credo sia una versione, puoi trovare la versione, insomma, tutta. Ma voglio sperare di sì, però se devo essere sincera non lo so. Io ma l'ho visto a questo punto, capito? Mi domando. Non ho dubbio. In effetti io non credo di aver visto una roba così lunga, quindi mi verrei il dubbio di aver visto la tagliata. Però devo dire a me strapiaciuto. Anche a me, tantissimo. E regge il confronto con questi nuovi Dune che sono usciti ora, che... hanno dalla loro chiaramente una tecnologia che, a parte, io sono molto affezionato all'analogico, al pupazzo, alla... Sì. E quindi per me Lynch regge il confronto. Però è chiaro che le nuove tecnologie, cioè un pianeta intero. No, è vero, però era più secondo me era più affascinante quello di Lynch, perché c'ha queste robe anche un po'... che ne so, loro con gli occhi azzurri, stranissimi, fatti ovviamente con la tecnologia grezza, ma forse era il suo bello. Sti vermoni. Ma boh. I vermoni sono bellissimi. Dai, spaccano. Tra l'altro non mi ricordo, ma mi sembra che i vermoni li abbia fatti Rambaldi, se non sbaglio. Beh, penso proprio di sì. Sicuramente erano quelli previsti da Jodorowsky, li doveva fare Rambaldi. Poi chissà, lì è andato tutto ai maiali, quindi ciao. Però sì. Come dire, questo film secondo me è un film che ancora merita la pena di essere visto, nonostante tutte le sfighe. E Lynch ha imparato la lezione da questa esperienza traumatica e pare che da lì in poi si sia sempre preso i director's cut, quindi non ha mai lasciato la casa di produzione i tagli per paura che poi ci facessero dei porcai. Quindi, e tra l'altro credo che alcune cose poi abbia provato a prodursele da solo di base, perché ha detto sì, vabbè. E quindi insomma, grande Dino De Laurentiis, ha fatto, cioè, per certi versi ci ha regalato un bel film, per altri bel lavoro che ha fatto. E vabbè, è andata così. E arriviamo ora a Twin Peaks. Oh, ci va. E qui io tra l'altro l'ho scoperto tardi, l'avrò scoperto intorno, non lo so, l'avrò intorno ai 25 anni. Ah, pensa, io l'ho visto invece quando ero pischella, cioè quando andava in televisione. Eh no, io mi sono dovuto... Sì, l'ho visto online, sì, sicuro. Sì, no, sì. Io l'ho visto in televisione e mi ricordo che quando il giorno dopo ne parlavo con le mie amiche, comunque ero tipo... No, sì, ero alle elementari. Comunque cioè, avevamo niente ovviamente con le mie amiche. Cioè nel senso, vabbè, direi cioè, è normale, cioè, lo dovevi vedere perché era la cosa del momento, non potevi non vederlo. Però ne parlavi come una cosa tipo figata Laura Palmer. Però non è che ci capivamo niente. Allora partiamo da un presupposto, da una questione. Che qui con Twin Peaks si vede davvero l'onirico di Lynch, che è talmente onirico che ogni puntata è quasi un genere diverso di film. Si passa Vero. Dalla commedia al thriller, all'horror, al western, al... cioè veramente ogni puntata è diversa. È vero. Come mood, poi chiaramente tutto collegato, c'è la storia. Storia complicata, proprio perché è una storia che va al di là della comprensione. Cioè, chi ha ucciso sta Laura Palmer? Per lungo tempo non si capisce, e anche quando si capisce... ti rimane il dubbio. Boia se ti rimane il dubbio. Parte tutto, vabbè, è ambientato qui, veramente è l'esempio lampante del fatto che dove è nato e cresciuto là in qualche modo no, lo ha sicuramente segnato. Infatti è ambientato in una fittizia cittadina di montagna, posta lungo questo grande fiume che quindi viene usato per esempio per i tronchi degli alberi, trasportare i tronchi, no? Che vengono tagliati, ci sono le segherie, in più c'è questa grande cascata fra questi due picchi gemelli, appunto i Twin Peaks, che quindi è anche una possibile centrale idroelettrica, e quindi anche questo sarà quindi la tecnologia che arriva, no? Gli investitori, l'industria, sì. Esatto, l'industria che arriva, che cerca di inserirsi in questa, però in questa società campagnola, montanara, chiusa in se stessa, oscura, esatto, che sembra tutto, che vada tutto molto bene, sia una cittadina molto tranquilla, e invece per niente tranquilla. Sì, tra l'altro ora, adesso siamo abbastanza abituati a serie o film che scardinano il mito della cittadina tranquilla, sì, no? Sì. È molto ricorrente questa cosa, anche un po' noioso, no? La bella famigliola che poi invece si rivela essere tutti matti. Ecco, lì non era proprio una cosa usuale, cioè è un po' il primo Lynch a fare questa cosa, a parte se vogliamo togliere grandi registi di film, magari un po' più che veramente anche Pasolini o altri. Ah vabbè, certo. Cioè non è che era una roba inesplorata completamente, però questa roba del paesino americano apparentemente idilliaco che poi esplode, ecco, non era proprio usuale portarla in televisione. Sì, è una serie, quindi questa non è un film, è una serie lunga, due stagioni intere, da cui poi è uscita una terza stagione. Ora 5 anni fa, quando è uscito? Sì, pochi anni fa. E ci sarebbe anche un film, Fuoco cammina con me, che è invece si posiziona prima della serie. È un prequel, sì. Esatto. Dovrei riguardarlo perché sono un po' sfocato. Anche io ce l'ho vabbè, già tutto sfocato con Lynch. Sì. Però sì. Sì, che tra l'altro non ha avuto un gran successo, Fuoco cammina con me, però sull'ondata dell'entusiasmo comunque poi la gente sì, giustamente, cioè, se l'è vista. Io mi son visto la serie e poi mi hanno detto guarda che c'è anche un film, e subito infogliato a cercare. Certo. Assolutamente, no, ma lo vedo male, vabbè, dov'è il DVD? Ancora? Ho comprato il DVD. Ah, vedi? Perché non trovavo un buon file, quindi... Ancora ne voglio. Esatto. Sì, chiaramente lì c'è la ruota, la vicenda intorno al ritrovamento di questo cadavere di Laura Palmer. È buffo perché è una persona di cui si parla per tutta la serie e che non si sa niente poi in fondo di lei, se non il fatto che è morta o qualcosa che comunque ruota sempre intorno alla sua uccisione. E anche qui, insomma... mostrare un cadavere, farlo riportarlo in continuazione, insisterci, mettere il dito nella piaga, non era una cosa così così banale nei primi anni 90, soprattutto in televisione. Cioè, andava in prima visione, secondo me, comunque. Credo di sì, non lo so. Scusate, in prima serata volevo dire. Sì, in quel senso. Cioè, all'inizio abbastanza così. La seconda serie, tra l'altro, io l'ho vista, ho dei ricordi veramente, veramente vaghi, e lo ammetto, da dovrei rivedere. Se dovessi dire dove inizia la prima e la seconda, non lo so. Difficoltà. Bellissimo, mi ricordo delle emozioni contrastanti, tipo placido, ah, paura, esatto, placido, esatto. Paura, sì, tutta roba così. E niente, è una serie da assolutamente riprendere per chi non l'avesse vista, per la presenza di personaggi incredibili, non ultima la signora Ceppo, per esempio. Oddio, che bella. Questa signora che gira con un ceppo in mano, anzi, che lo culla come un bimbo, ce l'ha sempre con sé. C'è una roba che non ti schiodi dalla testa. Che, sì, esatto, è una figura folle, ma che poi in realtà si rivela essere anche abbastanza importante. Forse sì, forse no, perché non si capisce bene che dice. Onestamente no. Però al di là appunto di figure come la signora Ceppo, c'è i grandi protagonisti. Per esempio Dale Cooper, l'investigatore dell'FBI che arriva per indagare su questo omicidio insieme alla, vabbè, la polizia del luogo che è tutto, che c'è uno più stupido dell'altro, tranne, no, tranne lo sceriffo, ma gli altri sono, ce la possono fare, non ce la possono fare, incredibili. Quindi loro sono una parte veramente comica, che in alcuni momenti veramente dice, cioè siamo in un thriller, e questi veramente sono, e anche è anche Dale Cooper, questa figura che cambia in continuazione, sembra proprio fuori contesto, spesso fuori contesto, sembra che non capisca niente anche lui, e invece no, capisce molto bene. Insomma, è complicato. Sì, tra l'altro lui, l'agente Cooper, tra l'altro è interpretato dallo stesso attore, uno dei feticci. Lui è uno dei feticci, sì. In Blue Velvet, in tanti altri film, insomma anche lì. E c'ha questa faccia pure lui incredibile, proprio sì. Linciana, con questa sì. Mascella assurda. Ed è storto, cioè nonostante ci abbia una faccia che potresti dire anche abbastanza ordinaria, in realtà è storto, è proprio strano. Cazzata, però cioè, è anche uno dei grandi protagonisti a un certo punto della serie How I Met Your Mother, che non so se hai presente, è una serie americana, molto, però insomma mi fa molto sbellicare, quindi, insomma me la sono vista, e la figura di lui riprendono molto questa cosa linciana, per cui giocano tanto sul fatto che lui c'ha uno sguardo, effettivamente se gli pigli solo gli occhi è un po' da pazzo, dai, sì, sì, e quindi nella serie giocano molto su questa cosa in cui lui dice delle cose tranquille in teoria, però le dice in situazioni in cui è in penombra e si vedono solo gli occhi, per ti cui fa paurissimo, terrorizza sempre tutti, poi dopo esce all'ombra invece è anche la bocca, allora è sorridente, ah vabbè, ed effettivamente riprende molto questo personaggio, eh sì, dai, come fai a non pensarci, poi esatto. E sì, e tra le varie robe, non soltanto i personaggi, che chiaramente c'è il nano, Laura Palmer stessa, cioè boh, ce n'è mille, per non parlare di Bob, ma vabbè, lì siamo Bob proprio, è Cristo santo. Impossibile da descrivere. Sì, comunque ecco, tutta roba che ti rimane in testa, ma ci sono anche luoghi, come ad esempio la Loggia Nera. Giusto. Che è qualcosa che anche lì... magari non ti ricorderai la trama di Twin Peaks, comprensibilmente, ma ti ricorderai dei dettagli, come per esempio la stanza in cui sì. può succedere di tutto, che è appunto questa loggia nera, dove le leggi della fisica e della materialità si sovvertono e dove succedono cose assurde. Questo è davvero onirico, nel senso che magari te il sogno, quando ti svegli la mattina, non te lo ricordi per bene tutto, ma ti ricordi degli sprazzi, dei luoghi, delle cose. Questo per un po', poi a un certo punto svaniscono anche loro. A un certo punto svaniscono, sì. E poi magari a un certo punto ti ritornano fuori, richiamate da chissà cosa, da un ricordo, da un colore, un motivo. E questo Lynch gioca tantissimo. Quindi c'è la loggia nera con questi suoi tendaggi rossi e questo pavimento a come si chiamano quelli? Sono un po' a onde, a doghe, a non so come si dicono, insomma, non lo so neanche io, a losanghe. Lo so, e comunque motivi geometrici che ti rimangono effettivamente molto in testa. E quello che dice fondamentalmente Lynch è quello che voleva fare era costruire un luogo immaginario. La loggia nera è un po' il momento in cui dal già confondente panorama di Twin Peaks si passa in un mondo completamente immaginario, si entra nell'inconscio, si entra proprio nel lato oscuro, dove magari non succede niente di terrificante, magari si ha semplicemente una conversazione storta è un po' strana, oppure appaiono delle cose po' bizzarre. Sì, però con quest'idea no, che ti senti sulla fila, sul filo di una lama, comunque, nel mentre. Sì, c'è sempre qualcosa, non c'è, per esempio, non c'è il causa-effetto, non c'è il rapporto causa-effetto, è un luogo molto metafisico, un po' ricorda di Chirico, ricorda, cioè, chiaro che ce l'aveva in testa, ci sono anche dei riferimenti proprio estetici. E di fatto il tempo viene stravolto, ci si ritrova Laura Palmer che era morta e invece lì ce la ritrovi, e come dire, è un po' l'escamotage di Lynch per sospendere per un momento la linearità, chiamiamola così, non lo è mai, ma insomma, della trama. E tra l'altro ci sono delle cose anche buffissime. Gli abitanti della loggia, di questa loggia nera, parlano questo dialetto inglese distorto, completamente strano, per cui tu, che non è proprio al contrario, tra l'altro. Io all'inizio pensavo fosse semplicemente che invertissero le parole, le lettere. Invece no, è storto, con le parole un po' anagrammate, è ancora più complicato. E parlano per enigmi, quindi insomma c'è tutte queste cose strane. Ci sono i mutaforma, quindi arrivano degli elementi che sono un po' sciamanici, sono un po' tipici di diverse religioni non monoteistiche, e che Lynch riprende, che butta dentro questa cosa come elementi anche un po' ancestrali, che evidentemente ti richiamano delle cose alla mente. Va detto che da Lynch, ma in genere da quel mondo lì, c'è un fumetto italiano che ha preso tanto, che è Dylan Dog. Ah, è vero. Dylan Dog addirittura a un certo punto entra esattamente dentro la loggia nera di Lynch. C'è proprio una che ora stavo ricercando l'albo qual è, ma non lo sto ritrovando. Insomma, dovrei fare una ricerca più approfondita, però me lo ricordo bene. C'è proprio un momento in cui entra nella loggia nera, la ricorda tantissimo quella di Lynch. Poi chiaramente è un fumetto, quindi riesce ad andare oltre, però cioè, ha segnato anche una roba come Dylan Dog. Comunque, insomma, per il fumetto italiano è un personaggio importante. Ma perché è qualcosa che ti rimane in testa, no? Cioè, veramente è difficile che una persona che abbia visto Twin Peaks, ma magari ti dice che gli ha fatto schifo, che non, ma è difficile che non si ricordi almeno degli sprazzi, delle impressioni, perché è qualcosa che ti tormenta in qualche maniera. Assolutamente. E quindi non c'è tanto altro da dire, nel senso ci sarebbe tanto da dire, ma difficile da spiegare. Sì, è ineffabile. Vi invitiamo a guardarlo, tanto si trova molto facilmente. O riguardarlo anche, io davvero, effettivamente confesso, l'ho visto quando ero abbastanza piccola, poi ho provato a rivederlo dopo, però insomma è qualcosa che va visto anche in diverse fasi della vita, effettivamente. Vero, vero, vero, vero, assolutamente. E ci fermiamo un secondo per andare poi verso la fine un po' di questa puntata, anche se poi di produzioni ce n'è un bel po', però insomma ci concentriamo un po' sulle ultime cosine. A fra poco, queste sono le porte di Tannhäuser, Radio Wombat. Thank you. Ed eccoci qua a Porta di Tannhäuser. Stiamo parlando di David Lynch e abbiamo appena finito di parlare di Twin Peaks, la serie televisiva iconica. Sì, tra l'altro quella che abbiamo appena sentito invece era Into the Night, era Julie Cruise, la voce, anche lei, feticcio, se vogliamo, di un po' tutta la produzione di David Lynch, meravigliosa cantante, anche lei, ahimè, morta pochi anni fa e non abbastanza, tra l'altro, celebrata. Strano, non succede mai. E anche quello faceva parte della colonna sonora di Twin Peaks e vi consiglio di andarvi a ascoltare un album di Julie Cruise che è uscito pochi anni fa con, tra l'altro lei faceva sta roba anche molto prima di conoscere Badalamenti o Lynch, ed era veramente bellissima. C'è un album suo che potete andarvi a ascoltare, si trova un po' ovunque, con delle cose veramente veramente belle. Arriviamo al 2001, quindi superiamo, varchiamo gli anni 90, arriviamo al 2001 con Mulholland Drive. Io veramente, come ti dicevo anche fuori dai microfoni, ho dei ricordi veramente confusi. Mulholland Drive, confesso che ho veramente avuto difficoltà a seguirlo. Si parte da un incidente automobilistico, qui i riferimenti a Ballard, a Andy Warhol, del resto anche sono abbastanza ovvi ed evidenti. Cioè, diciamo che se uno come Lynch porta in scena un incidente automobilistico e ci calca la mano, non lo fa a caso, ma fa riferimento a un immaginario anche fantascientifico di cui abbiamo parlato abbondantemente anche in altre puntate. E poi si continua in un sogno un po' indecifrabile, effettivamente, e irraccontabile, dove poi la storia di fatto si ripiega un po' su se stessa e cambia continuamente il piano della realtà. Cioè non sai mai dove ti stai trovando, non riesci a seguire le persone attraverso un flusso lineare. È sempre tutto che la storia in realtà si rivela essere un'altra, ti riporta al punto di partenza. E quindi è volutamente faraginoso, ecco, come film. Assolutamente, parte da appunto un incidente di auto, l'unica sopravvissuta è questa donna che ben presto si renderà conto, oppure no, di aver subito un'amnesia e quindi questa sua non sapere chi è, chi e tutti quella che la circondano, che tra l'altro non si stupiscono nel fatto che lei si presenti così in casa, sì, della gente, capito, a caso e... ma vengono presi dalla pietà, cercano di aiutarla e insomma da lì comincia un po' tutto il... Poi l'inserirsi continuamente di nuovi personaggi, che chiaramente non... L'inizio è un niente, c'è solo sta donna. E però cosa è successo? Lo si scopre piano piano, diciamo. Ma sì, è come quando devi guardare l'arte astratta e non è che ti puoi fare troppe domande, devi abbandonarti un po' in una certa maniera. Quindi è lo stesso in un film come Mulholland Drive, tu non ti puoi chiedere cosa sta succedendo, devi semplicemente buttarti lì, come si fa in un sogno, cioè che non ha un filo logico, è tutta una serie di input, se vogliamo, che ti arrivano, li devi in qualche modo elaborare. E invece poi volevamo raccontarvi anche un lavoro forse un po' meno conosciuto di Lynch. Questi che vi abbiamo detto, raccontato finora, chiaramente sono tra i suoi lavori più noti, quindi molto probabile che li abbiate visti. Forse potrebbe esservi sfuggito Rabbids, che è una serie del 2002 di 7 cortometraggi che ha come protagonisti 3 conigli antropomorfi. È una sitcom, o meglio, è stile sitcom, anche se chiaramente è una presa in giro anche del modello sitcom. È ambientata in questa specie di pièce teatrale, perché anche la scenografia, l'ambientazione è molto, è sempre questa casa. Le voci dei pesci conigli sono gli stessi, sono attori che ci sono in Mulholland Drive. Fra l'altro, esatto. E questi conigli è un'animazione, diciamo, ora non so se è un stop motion o comunque è un'animazione, e questi conigli ragionano tra di loro in questi discorsi sconnessi in una sorta di pièce teatrale, appunto, cioè più che un film sembra uno spettacolo teatrale. E, ed è molto interessante, ecco, perché sia si ritrovano gli elementi un po' onirici che, di cui abbiamo parlato oggi, ma c'è anche, qui si parla proprio di rimozione del trauma. Sono evidentemente questa famiglia di conigli, fa riferimento continuo a qualcosa di drammatico che è successo, qualcosa di indicibile, una tragedia, un fattaccio, un brutto che è violento, che è successo, di cui non si riesce a approfondire, non si sa, non si dice. L'inizio è in una città senza nome, bagnata da una pioggia incessante, tre conigli convivono con un terribile mistero. Capito? Per farla prende bene. E questi conigli, anche lì poi ci sarebbe un riferimento alla collina dei conigli, chissà, non saprei. Può darsi. Dai, ci sta, perché comunque anche quella era bella inquietante. E quindi ve lo consiglio perché è un Lynch divertente poi in fondo, cioè è chiaramente il Lynch inquietante che conosciamo, ma si prende anche alcune libertà, alcuni di giocare, anche perché... che ne so, la sitcom è presa in giro con ci sono i loro che fanno battute e le persone che ridono, cioè questo fuoricampo di spettatori, spettatrici che ridono sempre nel momento sbagliato, sempre un po' fuori sincrono, quindi c'è un giocare con la realtà e con la rappresentazione, è molto, molto divertita anche. Sono 7 cortometraggi, come si diceva, molto brevi, quindi insomma si vedono anche velocemente. E l'ultimo film di cui invece vi raccontiamo è Land Empire, l'impero della mente, che è l'ultimo film al cinema, diciamo così, del 2006, l'ultimo film che ci ha regalato Lynch in qualche modo, ed è, sì, poi dopo ha fatto altre cose, come diremo, ma insomma al cinema questo effettivamente è l'ultimo. E lui ha descritto, siccome poi amava parlare dei film, del resto avrebbe rovinato tutto probabilmente parlandone, con la sua ottima vocetta, quello che ha detto quando raccontava di Inland Empire, ha detto: un mistero su una donna in pericolo. Che definizione perfetto. Permeante. Chiaro. È piena di senso. In un'altra intervista poi invece ha parlato un po' del metodo che ha usato per girare il film, dove ha detto: non ho mai lavorato ad un progetto come questo prima, non so esattamente come si rivelerà, io starnutisco, come si rivelerà alla fine. Questo film è molto diverso perché non ho un copione, ho scritto le cose scena per scena e molte di loro sono già state girate, ma non ho molto se non qualche indizio su come finirà, e si vede, se posso dirlo, effettivamente Lynch ha girato questo film in una maniera faraginosa per qualche verso, volutamente faraginosa. Quasi come se si consultasse con i Ching o con un oracolo, cioè via via andava avanti e vedeva dove lo portava il film. Quindi il risultato, giudicatelo un po' voi, è al massimo grado confondente, come piace a Lynch. Quindi siamo in realtà alla fine della scaletta, io vedo che stai leggendo delle cose. Sì, no, beh, prima mi ero ti stai alienando. Prima mi ero fissato sul capire come Rabbids come è fatto. Non riesco a capire se sono in realtà attori con le teste. Oddio, potrebbe anche essere. Perché non l'ho visto, quindi non lo so. Sì, io non me lo ricordo, ho visto anni fa e sinceramente non me lo ricordo. Dopodiché mi sono intrippato con a trovare qualcosa di diverso su quest'ultimo film. No, l'unica cosa così è che l'edizione in lingua originale nel DVD include il contenuto speciale More Things That Happened, un montaggio di 75 minuti di tutte le scene rimaste fuori dalla versione, perché comunque Lynch non va mai, insomma, corto. No, direi di no, perché comunque gli rimane qualcosa a dire. Ho detto tutto, ma c'ho ancora quella cosettina che mi rimane lì, che ce l'ho. Esatto. E comunque sì, questo era un po' l'ultimo film, perché poi andate a vedere la grande, veramente torrenziale produzione di David Lynch, cioè una ogni anno fa almeno due o tre cose. Esatto. Che siano cortometraggi davvero quasi uno all'anno. Roba per la televisione ne ha fatta diversa, non solo Twin Peaks, ma è uscita diversa robina, o Twin Peaks rifatto, insomma, è rivisto. Documentari. E poi ecco, infatti, poi attore in tanti suoi è film, vero. Ma non solo. In realtà no, sono tutti suoi, mi sa. No, dai, dici? Ah, Luisa. No, ah, no, non è vero, perché per esempio si diceva prima, c'è anche nei Griffin, due puntate dei Griffin c'hanno, e una di Cleveland Show. E chissà che voce fa nel Cleveland Show. Voce dal 2010 al 2013, lo scopriamo subito. Ah, vedi? Sì, vabbè, ma io ribadisco che la voce di Lynch era qualcosa veramente da utilizzare in mille modi, cioè non poteva essere buttata via, perché c'aveva una voce veramente fantastica. Ecco, doppiatore originale. Dove sei, David? Dove sei? Non c'è. Beh, vi lasciamo con questo dubbio. Appunto, se no, videoclip e poi mostre delle sue opere, ce n'è a bizzeffe, delle sue opere pittoriche. Eh sì. E tra l'altro vi invitiamo anche a vedere, abbiamo ascoltato in apertura l'album musicale di Lynch, Crazy Clown Time, e l'album del 2011. Vi consigliamo anche di andarvi a vedere proprio l'omonimo brano Crazy Clown Time. C'è un videoclip girato ovviamente da sì. Lynch, che è bellissimo, è particolarmente inquietante, e vi consigliamo di vedere pure quello. Anche The Big Dream, tutto l'album molto bello, devo giusto, dire. Noi abbiamo sentito alcune cose anche di quello, se no anche Blue Bob o che è precedente, o Thought Gang con Angelo Badalamenti, a quel punto, l'amico. Nel 2018, l'amico. Tra l'altro anche Badalamenti morto anche lui pochi anni fa, quindi insomma diciamo che sono tutte e tre persone che ci mancheranno moltissimo. Eh sì, assolutamente. Niente, questo era un po' il nostro racconto di David Lynch, che grazie alle sue produzioni comunque ha influenzato le produzioni fantascientifiche moderne. Sì, non abbiamo detto, ma forse è anche superfluo, che chiaramente Lynch ha lasciato un'eredità enorme, che è stata ripresa da tantissimi nel cinema, nella scrittura, cioè è stato citato un po' ovunque in realtà, ma devo dire non soltanto Twin Peaks, ma anche veramente il resto. Certo. Quindi insomma si ritrova e ha proliferato, diciamo, anche attraverso i lavori di altri e di altre. Esattamente. Quindi questa era nulla, era l'ultima notizia su David Lynch. Pace all'anima sua. Ci risentiamo non il prossimo lunedì, ma quello successivo, dove forse parleremo di Oz, o chissà, altrimenti parleremo di... Che si era detto? Non mi ricordo. Non ricordo più neanch'io, e quindi va bene così. Sorpresa. Lo scopriremo solo vivendo, come in un sogno di Lynch. Se non ascoltate tutta la puntata, non scoprirete mai. Esatto. Di cosa stiamo parlando. Quindi vi invitiamo a non rimuovere le vostre paure, ma a viverle attraverso Lynch e i suoi incubi. Vi lasciamo alla buonanotte e vi diamo appuntamento tra due lunedì. Ciao ciao. Very Wombat. Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare e ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the Foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare. No, io sono tuo padre. It's